Comunicazione impotente. Nel video della settimana scorsa abbiamo visto il primo elemento, ovvero come il far leva su punti di debolezza piuttosto che su punti di forza possa rendere più efficace la nostra comunicazione. Oggi vedremo il secondo elemento di cui parla Adam Grant, ovvero il potere di un linguaggio incerto. Per spiegare questo concetto, Adam Grant utilizza un esempio molto chiaro. Avete presente quei giochi di ruolo in cui ognuno deve fare qualcosa e bisogna collaborare insieme e questo permette di capire la natura delle dinamiche di gruppo. Esempio, siete un gruppo di 10 persone e dovete immaginare di essere nel deserto. Avete a vostra disposizione 10 oggetti, ma ne potete portare con voi soltanto 5. Quindi ognuno deve capire innanzitutto tra questi 10 oggetti quali si porterebbe dietro e quali lascerebbe invece sul posto. E poi se ne discute insieme e discutendo insieme alla fine bisognerà arrivare a capire qual è il gruppo di oggetti che tutto il gruppo ha deciso di portare con sé. Uno di voi potrebbe prendere la parola e dire così per difendere la sua scelta: questa torcia non è abbastanza alta nella graduatoria, se ci troviamo poi di notte è l'unico dispositivo di segnalazione veramente efficace, dobbiamo assolutamente portarla con noi. Probabilmente agli altri componenti del gruppo un'affermazione del genere non piacerà molto. Questa persona è troppo assertiva, troppo dominante, troppo sicura di sé. Non si riesce a lavorare bene con lui perché non tiene conto dell'opinione degli altri. Pur rimanendo dell'idea che la torcia è veramente importante, si può esprimere lo stesso concetto in un modo un pochino diverso. Ragazzi, non pensate che la torcia debba avere una classificazione più alta? Potrebbe essere un dispositivo di segnalazione molto affidabile ed importante. Che ne pensate? Il contenuto è lo stesso, ma l'espressione, invece di essere assertiva, sicura di sé, assoluta, è invece un po' più titubante e incerta. Detta in quel modo, quella frase ottiene più credito e fiducia rispetto invece alla frase con lo stesso contenuto ma detta nell'altro modo che abbiamo visto prima. Per quale motivo? Siamo più disposti ad accogliere l'opinione di una persona che non parla in modo assoluto, ma in modo un pochino incerto e titubante, perché pensiamo che sia importante avere a che fare con persone che non vogliono mettere al centro soltanto le loro idee, ma che diano anche spazio agli altri, che ascoltino le opinioni degli altri, che vogliano arrivare ad una decisione che sia condivisa e non imposta dall'alto. Altro esempio, sei in una posizione di responsabilità e devi convocare una riunione per decidere qualcosa. E con questo non intendo dire che sei il super mega dirigente di un'azienda con 100.000 dipendenti. Potrebbe essere semplicemente una riunione di famiglia in cui insieme al tuo partner e ai tuoi figli dovete decidere dove andare in vacanza, oppure devi prendere una decisione insieme a tua moglie e a tuo marito. La convinzione abituale è che se hai convocato qualcuno per parlare di qualcosa, devi arrivare a quell'incontro con le idee ben chiare, sapendo quello che vuoi e che vuoi proporre. E questo, per carità, ci sta assolutamente. Il problema però è se tu parti in quarta, dicendo subito con chiarezza le tue opinioni, portando magari 10 motivazioni molto chiare, molto stringenti, per cui la tua scelta è la scelta migliore. Certo, le potrai convincere in questo modo, ma non è detto che questo sarà accettato di buon grado dalle altre persone, perché sentiranno come tu non sei interessato a loro, alla loro opinione, ma sei soltanto interessato ad imporre la tua. Quando incontri qualcuno è fondamentale che la persona percepisca che tu sei interessato alle sue idee, alle sue opinioni e a quello che pensa, e non soltanto alle tue idee e alle tue opinioni. Ecco quindi 4 semplici modalità con le quali potrai fin da subito mettere in campo una comunicazione un po' più imponente, cioè se vuoi, se ti va, se pensi che sia giusto. Primo, espressioni che indichino una qualche esitazione, cioè forse, voglio dire, sai, lo so, ci hanno sempre insegnato che per una comunicazione efficace Queste interiezioni sono disordini, sono espressioni verbalmente disordinate da eliminare, ma in realtà quando si tratta di una comunicazione interdipendente, questi piccoli disordini verbali possono esprimere quella giusta esitazione che fa capire all'altro che teniamo a lui e alla sua opinione. Secondo, avverbi e verbi che esprimono incertezza. Forse, probabilmente, penserei che. Terzo, avvertenze, precisazioni, disclaimer, controindicazioni. È qualcosa che faccia capire all'altro che sei preoccupato della sua opinione e che potrebbe anche lui mostrarti e tu già ci stai pensando. Qualcosa del tipo: senti, lo so che a prima vista questa potrebbe sembrare una cattiva idea, però prova ad ascoltarmi. Quarto, convertire le affermazioni in domande. Invece di "ecco un'idea veramente interessante", provare a dire "che ne dici, potrebbe essere interessante, no?" Invece di "è carino", provare con "mi sembra carino, no?" Ancora una volta, sembrano soltanto piccoli fattori che in realtà non cambino la sostanza del discorso e in realtà credo che siano quelle piccole attenzioni che dimostrano in te un'apertura verso gli altri e le persone sono contente quando vedono che davanti non hanno una persona così dittatoriale, così sicura di sé da non pensare agli altri, ma che invece si preoccupa di quello che gli altri pensano. Potrebbero sembrare forme che comunicano impotenza e non per niente Adam Grant le mette proprio all'interno del contesto della comunicazione impotente, ma in realtà sono piccoli accorgimenti che possono creare un clima di fiducia e di stima reciproca. La prossima settimana vedremo il terzo elemento della comunicazione impotente, ovvero il potere di porre domande. A questo punto potresti iscriverti al canale, che ne dici? Potresti magari anche attivare la campanella, se vuoi, però, perché in quel modo non ti perderesti le notifiche su tutti i prossimi video che arriveranno. Ma solo se vuoi, soltanto un consiglio, non voglio importi niente.